Grazie Federico, un saluto agli ascoltatori. L'agenda della settimana teatrale. L'autore e regista Alessandro Serra presenta lo spettacolo Macbettu a Roma, al Teatro Argentina, dal 2 al 5 maggio 2019. Alessandro, benvenuto. Grazie, grazie. È un tuo testo, ma curi anche regia, scene, luci e costumi, e ce lo presenti? Sì, allora, lo spettacolo è un progetto che nasce circa 10 anni fa, e a seguito di un reportage fotografico che feci in Barbagia, nel cuore della Sardegna, che per me è stato una specie di ritorno a casa in qualche modo, perché sono stato ospite dei miei parenti sardi, perché io ho origini sarde, in particolare in questo paese che si chiama Lula, e da lì in qualche modo ogni giorno mi spostavo nei vari paesi a fotografare, a vedere per la prima volta questo residuo di ritualità dionisiaca, insomma. È un patrimonio davvero straordinario. E fotografando, scattando, poi ci fu anche una mostra fotografica, e mi si palesavano davanti agli occhi le immagini di questo testo che ho sempre molto amato, soprattutto nel pomeriggio in cui andai a Mamoiada a fotografare i Mamutones, e quando sentii questo incedere di campanacci, questa marcia terrificante da lontano, mi si in qualche modo... vidi e ascoltai, più che vidi, la foresta del Macbeth che avanza, e poi moltissime altre analogie, ma soprattutto la lingua, che è una lingua che ascoltavo da bambino a casa dei miei nonni, che una lingua che mi faceva anche molto paura in qualche modo, e una lingua che riascoltai per tanti giorni e che mi sembrò perfetta per raccontare quel tragico destino, sempre così, considerando il fatto che il problema delle messe in scena di Shakespeare in italiano è sempre un po' la traduzione, e c'è questa cosa buffa per cui le traduzioni invecchiano e c'è sempre bisogno di rifarle, mentre le opere antiche non invecchiano mai. L'Iliade sta sempre lì, è la sua potenza che irradia, e siamo noi che in qualche modo invecchiamo, è il nostro modo di comunicare che invecchia, per cui quella lingua così asciutta, una lingua in cui non esiste la parola ti amo in qualche modo, e quindi così composta, quasi casta e violentissima al contempo, ma anche molto musicale, perché non ci dimentichiamo che, insomma, il sardo barbaricino è il locuturese, diciamo così, questa lingua è un patrimonio inestimabile dell'umanità, perché i canti a tenore si vengono cantati con questa lingua. Per cui nulla, tornando a casa, al di là della nostra fotografia, puramente visivo, scrissi un progetto e dopo parecchi anni siamo riusciti a trovare un folle che ce lo producesse, ecco, questa è la verità. La scelta elisabettiana dell'interpretazione maschile? Ma sai, questa è anche questa scelta è stata dovuta al carnevale in qualche modo, che è il reagente con cui abbiamo fatto appunto reagire l'opera di Shakespeare, e i carnevali in Barbagia vengono interpretati da soli uomini, i quali interpretano anche i personaggi femminili, in particolare questa sorta di, si chiamano le attittadoras, che sono una sorta di prefiche, se vogliamo, insomma, no? Che sono, sì, queste vecchine con muccatore, quindi col fazzoletto in testa, che soprattutto a Bosa, che è un carnevale veramente molto particolare, perché non ha niente di esteticamente significativo, ma lì Dioniso davvero non ha nessuna paura a manifestarsi, sono totalmente posseduti e con queste sfilate anche molto scabrose e molto potenti, e sono sempre uomini che interpretano i personaggi femminili, per cui c'è stato ovviamente un tentativo, così come è stato quello della lingua, soltanto grazie poi alla materia che ho capito che la cosa poteva funzionare, che poteva, sì, avere un senso, per cui, sì, ci siamo presi un periodo di laboratori e un atelier lungo di 10 giorni in cui abbiamo giocato su questi due tentativi, uno di usare una lingua che praticamente nessuno conosce ormai, se non in Barbagia appunto, e in Sardegna ad esempio a Cagliari pochissimi capiscono Varese, qui è un po' farlo a Cagliari o farlo a Milano, è un po' la stessa cosa in qualche modo, no? Però tutti riescono a cogliere la bellezza del suono, sì, il fatto musicale in qualche modo, no? Che a volte diventa quasi un mantra. Sì. E la stessa cosa è stata con i personaggi maschili, insomma, abbiamo provato, perché ovviamente potevamo scadere anche nel ridicolo in qualche modo, no? E in realtà il testo si è prestato moltissimo ed è andato tutto più o meno bene, anzi è andato tutto bene, insomma. Ecco, a partire da questo parallelo, volevo chiederti come hai immaginato la messa in scena? Ma sai, io in realtà non sono un regista, non so come dire, non pratico, non ho mai studiato e non ho mai amato il teatro di regia, e cioè quel teatro in cui un essere umano, un artista, un teatrante legge un testo e decide di metterci il suo punto di vista di quel testo. Questa operazione l'ho sempre trovata piuttosto noiosa, sia nel praticarla quando ci ho provato, sia in alcuni esiti scenici quando vado a vedere un punto di vista di un regista, sì, piuttosto quando vado a vedere l'ego di un regista, che è ancora peggio, ci sono già quello degli attori, figuriamoci ci mettiamo quello del regista in scena, e il che non significa che io non sia presente, perché sarebbe ipocrita, sarebbe inutile, sarebbe stupido dirlo, che non ci sia un coinvolgimento profondo, che non ci sia in qualche modo anche un pezzo della mia vita dentro i miei spettacoli, però appunto praticando la scrittura di scena e vedendo e pensando alla scena da come un attore, perché io ho sempre studiato con gli attori, per cui per me il teatro è l'attore, sì, e anche quando intervengo come scenografo, come costumista, tutti i mestieri che non ho mai saputo fare, mi sono sempre inventato, il lavoro sui suoni che faccio io è un lavoro che nessuno me l'ha mai insegnato, però è come se ascoltassi e vedessi da attore in qualche modo. E proprio per questo c'è stata una parte della mia formazione significativa in cui ho proprio voluto studiare come attore. Dico questo perché, per rispondere alla domanda, non c'è un pensiero di messa in scena, okay, sono delle visioni, c'è un grande lavoro di raccolta di materiali e di materia oltre che di materiali, e pochissime decisioni meno invadenti possibili, insomma, come dire, meno presenti possibili, e poi tutto viene dato in pasto agli attori, okay, e tutto è improvvisazione, tutto è atto creativo, sì, anche con momenti di grande difficoltà come sempre, però siamo tutti richiamati a recitare la materia, che sia essa luce, testo, costume, oggetto, e quindi non c'è mai nulla, anche quando mi vengono le famose idee del regista o le famose immagini del regista, se non vengono attraversate, se non vengono sporcate, anche distrutte dai corpi degli attori, dalle improvvisazioni e anche da altre visioni che sono quelle di chi poi è chiamato ad essere materia insieme alla parola, al suono, per me non ha un grande interesse. Mm-hmm. E quindi in questo senso io ho pensato, c'è stato un grande lavoro che è durato molti mesi e ho scelto pochissimi elementi, ho cercato proprio di distillare anche questo patrimonio sconfinato, perché la Sardegna non è un'isola, è un continente, e quindi per quanto riguarda i costumi, i suoni, gli oggetti, era veramente il rischio di scadere nell'esibizione da prologo, non so come dire, era molto forte, sì. E in realtà gli elementi che abbiamo scelto, che sono degli elementi archetipici, anche i suoni che si sentono durante lo spettacolo, in realtà sono i suoni, al di là di quelli che noi creiamo in scena, che vengono in qualche modo, che fanno parte di una drammaturgia, i suoni registrati, che sono pochi in realtà, sono anch'essi sardi, perché sono le pietre sonore di Pinuccio Sciola, un artista straordinario, un grandissimo scultore, ma molto più che uno scultore, che è riuscito a far suonare le pietre della Sardegna, e un suono straordinario che tra l'altro avviene non attraverso la percussione come spesso accade, ma attraverso un atto molto più delicato, perché venivano accarezzate da lui, per cui tutto ciò è stato oggetto di riscrittura, di ripensamento, sì, appunto, sì, attraverso le improvvisazioni degli attori e le mie in qualche modo, perché pensando ad attore a volte agisco anche da attore, però per fortuna ho il buon gusto di fare un passo indietro prima di andare in scena. Beh,

10 ore. Più o meno quanti sono gli artisti coinvolti? Sono circa un centinaio, tra appunto i vari gruppi che parteciperanno e suoneranno tantissimi autori, insomma, dal 600 fino alla prima metà del 900 copriamo un po' tutta la letteratura musicale. Dal singolo all'orchestra? Sì, dal flauto solo fino alla grande orchestra con dei solisti strepitosi come Giovanni Solli, ma Leila Scirbani, Livio Gianola, Carlotta Maestrini, ognuno di loro con il proprio strumento, e quindi è un concerto anche molto godibile, perché secondo me l'errore più grave del mondo della musica classica è stata il vietare l'applauso tra i vari tempi delle varie sinfonie, e quindi ci sono dei concerti dove tu ti siedi e batti le mani dopo quasi 3 ore a volte, no? Quindi è un errore, perché la legge dello spettacolo c'è l'esatto opposto. Quindi pian piano le persone si sono andate allontanando, perché non c'è una capacità da parte loro, del pubblico, di interagire, di esprimersi, di sfogarsi, di superare un'emozione, che è la cosa che poi tiene incollati alla sedia spesso e volentieri. Quindi noi comunque frammentiamo delle opere, prendiamo dei movimenti isolati, li suoniamo isolatamente dal resto, per cui tutto il programma è molto fruibile, una sorta di tracklist Spotify dal vivo. Senti, si va dai pezzi propri ai classici? Sì, classici, stupendi classici, e poi ci sono delle opere prima assoluta, come appunto queste tre scene del Don Giovanni all'Inferno, che è una mia opera, che è un sequel della più famosa di Mozart, del Don Giovanni. Appunto Giovanni muore, non muore, ma va all'Inferno. Allora ho pensato che poteva essere carino continuare a dare vita a questo personaggio meraviglioso, però con la consapevolezza dell'oggi, utilizzando comunque il linguaggio di quell'epoca, quindi sia il libretto che la musica è scritta in un linguaggio armonico che potrebbe essere a prima vista scambiato per qualcosa del fine Settecento, però poi in realtà dietro c'è tutto un messaggio politico, anche di lotta, se vogliamo dire, contro un'avanguardia musicale che negli anni ha soltanto distrutto il rapporto tra autori e pubblico, scoraggiato gli imprenditori a investire sulla musica contemporanea, perché la musica non è piacevole, è una musica che evoca emozioni negative la maggior parte delle volte, per cui la mia opera, cioè, come per dire, secondo me bisogna ripartire da quel punto lì, cioè tutti i compositori, prima di pensare a inventare un nuovo linguaggio, sarebbe necessario che imparassero la sintassi del linguaggio universale della lirica, dell'opera lirica, della musica per il teatro, del sinfonismo, al che poi magari insieme negli anni magari il linguaggio si evolve, ma oggi è diventata un'isteria che ogni compositore, ogni opera deve cercare di cambiare il linguaggio, oppure quantomeno deve inventare un linguaggio entro la fine della propria carriera. È come se ognuno di noi volesse essere Dante Alighieri, cioè mi sembra una cosa un po' esagerata. Io credo che invece inserire contenuti nuovi con un linguaggio di una volta, o quello che è riconosciuto come la bellezza della musica assoluta, sia una cosa molto molto bella, anche perché funziona sia con i musicisti che le seguono queste musiche che con il pubblico, quindi evidentemente questa sperimentazione funziona. Nell'ideazione di questo evento avete avuto dei riferimenti, oppure si tratta di un esperimento unico? Per noi è stata una cosa spontanea, cioè lo abbiamo fatto e basta, senza sapere che qualcun altro nel mondo lo stava facendo. Poi abbiamo scoperto dopo che ci sono anche altre iniziative del genere, come in Olanda ad esempio, però ci è venuta spontaneamente questa cosa, l'abbiamo pensato al termine contraddittorio rave e musica classica, che ovviamente è il claim che attira comunque l'attenzione del pubblico, sia di quelli che non conoscono la musica classica, che sono attratti dalla parola rave, e quelli che conoscono la musica classica sono anche loro attratti dalla parola rave, a costa della parola musica classica, quindi

il pubblico apprezza molto questa modalità di trovarsi vicini, però non, ci tengo a dirlo, non violentati, no? Perché alle volte ci sono, almeno per me come spettatrice, delle messe in scena che non rispettano molto la privacy anche di una persona. Invece questa è una misura giusta, insomma. In chiusura lasciamo anche i riferimenti web per saperne di più sullo spettacolo e sulla tua attività. Certo, il sito è in costruzione, okay, come si dice, mentre al momento si può fare affidamento a, a Facebook, quindi il mio contatto è Valentina Bischi. Benissimo. Valentina, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Crepi, un abbraccio a te, a voi e grazie. Con Michele Riondino, uno dei curatori della sesta edizione di Un Omaggio Taranto. Michele, ben trovato. Ciao, ciao, ben trovati a voi. Ci racconti un po' di questa edizione? Ma questa edizione rispetta ormai quello che è diventata la tradizione da 6 anni a questa parte. È un evento, il nostro 1 maggio, un evento non musicale, ecco. Mettiamo subito le cose in chiaro. A differenza di altri eventi molto più famosi del nostro, il nostro evento è in realtà un grande comizio, un grande palco dal quale poter, poter avere la possibilità di affrontare certe tematiche, certi argomenti che solitamente non fanno breccia o non hanno il giusto spazio negli organi di informazione. E quindi a Taranto c'è la possibilità di parlare di TAV, di TAP, di parlare della questione Cucchi con Ilaria, abbiamo diversi ospiti che si succederanno, ecco, sul nostro palco. Tra un intervento e un altro ci abbiamo degli artisti che si esibiranno con la loro arte. Ecco, okay. Questo è. Allora, cominciamo parlando degli ospiti di quest'anno. Raccontaci un po' chi ci sarà. Avremo un palco, come anche gli altri anni, bello fornito. Ti dico subito che abbiamo Max Gazzè, Malika Yan, Elio di Elio e le Storie Tesi, Tre Allegri Ragazzi Morti. Avremo una bella scena italiana di quelle, di quei ragazzi che crescono bene, ecco, di Martino, Vito. Avremo la scena romana dell'hip hop storico, Corveleno, Colle del Fomento. Avremo Mamma Maria e Don Ciccio. E poi avremo Andrea Laszlo, Tic Tamburo, Istituto Italiano di Cumbia, Ainè, Epo, Maria Antonietta, insomma, e Carraros, che è la nostra espressione musicale, ecco, nostra del comitato anche. E poi Bobo Rondelli, Bugo, insomma, una varietà molto, molto, molto ampia, ecco, di scelte musicali. Per quanto riguarda gli interventi, alcuni nomi li hai fatti, dici gli altri. Beh, allora avremo sicuramente i compagni Notav che scenderanno dal Piemonte e loro non mancano mai di essere presenti sul nostro palco. Ci saranno i compagni Notap con il sindaco di Melendugno, Ezio Di Salvatore. Avremo le mamme Nopfast che insieme alle mamme lucane e alle mamme del nord, da nord a sud, uniranno appunto questo mega, questo incontro e questo contributo appunto che viene dalle donne. Per noi le donne, le mamme sono importanti perché a Genova nel 2005 l'aria a caldo dell'ex Ilva è stata chiusa proprio perché a impegnarsi per prima furono le mamme e le donne, le mogli degli operai che dentro si ammalavano. Poi avremo Bagnoli Libera e avremo poi questo sono molto contento che si sia liberato. Avremo il papà di Lorenzo Orsetti, il nostro partigiano che è caduto nella battaglia siriana, insomma, contro l'ISIS. Avremo gli attivisti Ende Gelande e poi avremo una componente appunto dei ragazzi che stanno organizzando la manifestazione del 4 maggio, importantissima, che appunto succederà all'evento dell'1 maggio. Avremo Raimo che è uno dei personaggi più più effervescenti della politica romana. Avremo Mimmo Lucano, un collegamento con Mimmo Lucano per la questione Riace, avremo le mamme di Plaza De Maio, quindi andremo direttamente in Argentina con un collegamento, Ilaria Cucchi, Mediterranea, insomma abbiamo veramente tantissimi interventi, avremo Biani che ci mostrerà le sue vignette, insomma parleremo di come nascono le idee per le sue vignette, insomma c'è davvero tanta roba, ecco. Ecco, ci racconti anche un po' il percorso in questi anni del Comitato Liberi e Pensanti? Il Comitato nasce nel 2012, è il 2 agosto del 2012, quando la questione Ilva è scoppiata, si può dire, perché il GIP Patrizia Todisco ha praticamente sequestrato gli impianti del siderurgico, perché da un'indagine è emerso che rappresentavano fonte di morte e malattia per la città di Taranto. Il 2 agosto del 2012 i sindacati, CGIL, CISL e UIL, sono scesi in piazza e hanno praticamente occupato quella piazza non accusando, ma facendo pesare le scelte di questo GIP sulla società tarantina. Cioè veniva detto che sì, il tribunale, insomma, questo GIP aveva sequestrato degli impianti, ma che comunque bisognava pensare al lavoro e che quindi la salute era importante, ma era importante anche il lavoro. Ecco, è nata questa dicotomia tra salute e lavoro, che è la malattia vera, quella che ci sta ammazzando tutti qui a Taranto. In quell'occasione il comitato che si è formato naturalmente, e dico naturalmente perché eravamo dietro al corteo, facevamo parte del corteo ed eravamo in coda, eravamo stanchi ormai di sentire le solite tiritere, litanie dei sindacati che da una parte fanno finta di difendere i lavoratori, ma dall'altra, soprattutto con l'esperienza Riva, la storia ci ha insegnato, ci ha mostrato come i sindacati stessi erano a braccetto col padrone, prendendo proprio soldi dal padrone e distribuendo occupazione all'interno del siderurgico. Beh, dalla coda del corteo questo comitato che si era appunto formato nel corso del corteo si è imposto, ha occupato la piazza a bordo di un tre ruote, di un ape con un impianto acustico fatto apposta per l'occasione. Abbiamo occupato quella piazza e non abbiamo permesso ai sindacati di fare l'ennesima comparsata in una città che ormai era martoriata dalla morte, dal dolore e dalla malattia. Quindi siamo nati lì, quel 2 agosto, poi abbiamo voluto occupare la festa del 1 maggio perché era ad esclusivo appannaggio dei sindacati, quando i sindacati su quel palco a San Giovanni a Roma non fanno altro che oscurare, diciamo, quelli che sono gli argomenti cardine della giornata dei lavoratori, addirittura sovvenzionati dall'ENI, dove l'ENI qui a Taranto noi lo combattiamo perché è fonte di inquinamento così tanto quanto l'ILVA, e abbiamo deciso di occupare anche quella giornata. Insomma, noi dal 2012 non ci siamo mai fermati, Federico. Poi la varietà dell'attivismo tarantino ha fatto sì che nascessero tante associazioni, tanti comitati, e siamo andati spesso insieme a braccetto, molto spesso altre volte abbiamo litigato. Fondamentalmente il discorso è che la galassia dell'associazionismo tarantino è molto varia, ma tutti abbiamo un unico scopo, un unico obiettivo, che è quella della chiusura delle fonti inquinanti. L'anno scorso noi ci siamo impegnati, e io in prima persona, a tirare, diciamo, la volata a quelli che erano i rappresentanti, a quelli che sono diventati oggi parlamentari del 5 Stelle, ma così come è successo anche in Piemonte, a Venaus, a Torino, insomma con i NOTAV, abbiamo avuto un movimento 5 Stelle e degli attivisti 5 Stelle che si sono affacciati nelle nostre sedi, hanno bussato alle nostre porte, hanno chiesto qual era la nostra opinione rispetto ai temi che ci rappresentano. Noi abbiamo detto che cosa pensavamo potesse rappresentare una soluzione del caso, e nel nostro caso siamo stati invitati in Parlamento, siamo stati invitati a riempire le liste. Insomma, noi abbiamo, calcola che noi a Taranto abbiamo permesso l'elezione di 2 consiglieri comunali alle ultime comunali di Taranto, 2 rappresentanti del movimento Movimento 5 Stelle, che appena è stato formato il governo, appena è stato fatto il contratto con la Lega e quando è decaduto ormai l'impegno della chiusura delle fonti inquinanti, si sono dimessi e adesso abbiamo due rappresentanti del popolo in un consiglio comunale che non fa altro che difendere le scelte produttive di un'azienda che continuano ad ammazzarci. Quindi il nostro avvicinamento a quello che era un movimento che prometteva la chiusura delle fonti inquinanti è venuto meno quell'impegno, e quindi ovviamente adesso ci scagliamo contro quello che era un movimento che si era sempre dichiarato amico dei tarantini, quando invece ha tradito come peggio non poteva. Per la scorsa edizione avevate avviato una campagna di crowdfunding, quest'anno come avete fatto per i fondi? Questo evento è un evento che non pesa sulle tasche di nessuno se non di quelli che vogliono darci qualcosa, ed è una bellissima medaglia che noi ci appuntiamo ogni anno sul petto, perché non prendiamo soldi dalle istituzioni ma chiediamo appunto un aiuto e un sostegno ai cittadini che vogliono darci una mano, quindi comprando le nostre magliette, il nostro vino, sovvenzionano e finanziano il nostro evento. Abbiamo piccoli sponsor etici che ci danno qualcosa, ci danno una mano, abbiamo una piccola televisione locale, Canale 85, che manda in diretta il nostro evento e ha l'esclusiva, abbiamo una manifestazione molto importante come il Medimex, che è nato e adesso risiede a Taranto perché ha scoperto nella nostra città una piazza molto recettiva da un punto di vista musicale, quindi ci dà una mano a sostenere le spese. Abbiamo Artisti 7607, che è una collecting di attori che si spende appunto per i diritti degli attori e ci dà una mano con la SIAE. Ecco, abbiamo queste piccole forme di finanziamento che ci danno una mano ad andare avanti. Bene. Parliamo anche un po' della data del 4. Sì, il 4 è una data importante, partiamo un po' da lontano. Nel 2012, quando noi abbiamo cominciato a marciare contro lo scempio che veniva fatto nei nostri confronti di cittadini, abbiamo cominciato come comitato ad allargarci, a fare un po' di informazione. 1 maggio Taranto nasce proprio per informare soprattutto i tarantini. Nel 2012 chi aveva 14 anni non poteva scendere in campo, non poteva essere il nostro, comunque lo era, ma insomma era molto giovane. Oggi quei 14 anni, 15 anni hanno 20 anni e hanno messo su in piedi una data che speriamo di ricordare come tante altre date importanti a Taranto. Il 4 maggio c'è questo corteo che parte da Piazza Gesù di 1000 Lavoratori, quindi nel cuore del problema, nel cuore del Rione Tamburi. Marceremo insieme fino ai cancelli, alle portinerie dell'Ilva, scenderanno i compagni da tutta Italia, quindi in continuità con quelle che sono state le assemblee a cui anche noi come comitato, anche io ho partecipato, quella di Napoli, quella di Roma, quella di Venezia e di Venaus, dopo il corteo del 23 marzo a Roma, quindi l'appuntamento di un nuovo corteo per incontrarci tutti noi che lottiamo per la libertà dei territori, dei diritti che vorremmo avere nei nostri territori. Ci incontreremo appunto il 4 maggio per marciare fino ai cancelli dell'Ilva e lì avviare un sit-in e stare lì quanto più a lungo possibile. Gli organizzatori del 4 maggio saranno ospiti di 1 maggio, appunto avranno il tempo e il modo per invitare tutti direttamente dal nostro palco. Michele, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per seguire l'1 maggio e il 4? Allora, gli appuntamenti web sono ovviamente con Canale 85 sul digitale terrestre. E poi c'è il sito internet di Liberi e Pensanti, chiaramente. Esatto, c'è la pagina Facebook del Comitato dei Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, c'è la pagina di 1 maggio Taranto Libero e Pensante. Noi vorremmo, e io invito veramente Radio Onda Rossa, ma così come altri compagni, Radio Onda d'Urto, insomma, a seguirci, vi invitiamo, venite di là, abbiamo una postazione anche per voi, perché il fatto che non abbia una copertura mediatica questo evento è un dato politico, è un dato politico la mancanza di copertura mediatica di questo evento, e quindi chiediamo a tutti i compagni di sostenere un omaggio libero e pensante e soprattutto di diffonderlo su ogni canale possibile e immaginabile. Ricordiamo allora un omaggio Taranto e poi la manifestazione del 4 maggio, sempre a Taranto. Un saluto e un ringraziamento a Michele Riondino del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti per questa sesta edizione. Michele, un abbraccio, un in bocca al lupo, ci sentiamo presto. Grazie, ciao a tutti. Eccoci per l'agenda della settimana teatrale con il nostro Simone Nebbia di Teatro e Critica che ci dirà tutto per bene. Ciao Simone. Buon pomeriggio a tutti quanti. Allora, settimana un po' così perché insomma c'è il primo maggio di mezzo, un po' non sono tantissime le cose da segnalare, però insomma ci sono dei progetti interessanti, importanti, che comunque ti segnalano. Allora, dunque, per prima cosa ti direi che c'è il secondo appuntamento del Focus Bolagno, sarà il 3 venerdì, con Pippo Rimarca, che questo suo trittico sul grande scrittore cileno morto nel 2003, che porta questo secondo capitolo, si tratta di Passeggero Bolagno, la nave dei sei personaggi, una lettura scenica, quella di Pippo Rimarca, un viaggio di fantasmi, un viaggio per nave, un vascello fantasma che naviga in un Mediterraneo spettrale senza geografia, quindi un po' appunto verso un vascello fantasma che naviga in un mare di fantasie in qualche modo. Ci sarà il fantasma di Bolagno e quello di Pirandello, che insomma dialogheranno della loro identità e chissà di cos'altro. Ore 20 al Teatro Torlonia, venerdì. Questa settimana al Teatro Valle c'è una mostra dedicata a Mehmet Perlini. Pirandello chi? Appunto, che il lavoro del 1973 di Mehmet Perlini, spettacolo e manifesto della nuova avanguardia romana, e che negli anni 70 insomma è diventato un po' un emblema. Dal 2 al 5 maggio per questa mostra dedicata al grande regista Mehmet Perlini e un ricordo di lui e del grande teatro degli anni 70. Poi questa sera all'Anificio 159 è l'occasione per vedere Die Panne di Valentina Pischi. È un lavoro interessante che Teatro e Critica ha già recensito, che appunto viene a fare questa replica secca a Roma, di Valentina Pischi con lei stessa e Francesca Sardella. Si tratta di una messa in scena che racconta la sera di autunno in un piccolo paese di campagna dove l'auto del signor Alfredo Trazzo, viaggiatore di commercio, va in panne. Cosa va a succedere ora in questa situazione? Si ritrova in una villa con il padrone di casa e viene in qualche modo invitato a cena. Cosa accadrà? Lo andremo a vedere questa sera all'Anificio 159 per Die Panne con Valentina Bischi. Poi ancora, Teatro Manhattan per la trilogia di Un corpo in punta di morte di Francesco Guglielmi, 3-5 maggio. Teatro Manhattan non ne parliamo mai, ma insomma effettivamente ogni tanto ritorna. Poi dunque vediamo un po' Il giudizio di Paride, che appunto è un'opera, in questo caso opera lirica, di Marcello Panni, l'operetta in un atto unico al Palladium il 3 di maggio, sempre appunto venerdì. Qualche altra cosa che voglio ricordarti: Signorotto di Massimo Odierna, che sarà allo spazio 18B dal 2 al 5 maggio, quindi da giovedì, una tragicommedia dalle tinte rose incentrata attorno alla figura di tre amiche, Ada, Ida e Beta, che hanno 50 anni e si ritrovano dopo tanto tempo al funerale di una del marito di una delle tre. Questo è quello che andremo a vedere allo spazio 18B. Allo Studio 1 invece parte la rassegna I giorni della Comune dal 2 al 26 maggio, un mese di programmazione proposto dai vincitori del bando Pillole, e quindi appunto per andare a vedere un po' il programma io ti segnalo soltanto il primo, Le Grand Ball con Alessandro Lefeo dal 3 al 5 maggio appunto nella sala del teatro Studio 1 di Tor Pignattara. Qualcosina ancora sicuramente da andare a segnalare, il teatro Stanze Segrete sicuramente, perché da questa sera fino al 12 maggio ci sarà la Resilienza, studi nudi di improvvisazione teatrale, con la regia di Giorgio Aggiuntoli, fino appunto al 12 maggio alle Stanze Segrete, spazio curioso, particolare, va assolutamente, cioè assolutamente andare a vederlo. Carrozzerie Notte invece, l'anteprima del piccolo diario di Malanni più di Giacomo Verde, progetto di danza che è all'interno, anzi di narrazione con video e danza, 4 e 5 maggio sarà alle Carrozzerie Notte, è uno spettacolo appunto di Giacomo Verde che scrive questo piccolo diario con di video e danza dedicato al fratello, un formatore medico che appunto gli ha regalato un quadernizio e una penna grazie di promozione farmaceutica, con l'idea di annotare riflessioni e disegni sul tema delle malattie, e su questo poi ha lavorato appunto Giacomo Verde per questo lavoro che verrà presentato con la firma di Altes alle Carrozzerie Not il 4 e 5 maggio. Poi ancora al Teatro Eliseo il debutto di autobiografia erotica di Domenico Starnone con Vanessa Scalera e Pier Giorgio Bellocchio e la regia di Andrea De Rosa, sarà in scena dal 3 al 12 maggio. Un testo tratto appunto dal romanzo omonimo di Starnone, Aristide e Mariella, che sono entrambi napoletani di origine, si incontrano in un appartamento a Roma. Lei lo ha convocato per email e gli ha ricordato che la ragazza, qui 20 anni prima, che con lui ha avuto a Ferrara un furtivo, frettoloso rapporto sessuale. Cosa succederà, diciamo, dal loro incontro, nuovo incontro, in questa vita nuova, insomma, dopo tanti anni, lo andremo a vedere dal 3 al 12 maggio in autobiografia erotica. E andremo a vedere l'ultima cosa della settimana, cioè il ritorno a Roma di un grande spettacolo, Macbeth di Alessandro Serra, una riscrittura in chiave sarda, molto cupo, molto forte, potente come lavoro sul piano scenico, dal 2 al 5 maggio al Teatro Argentina. E con questo, Federico, abbiamo chiuso. Simone, un abbraccio, alla prossima. Ciao a tutti. Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 14 con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.